Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche noi in diretta da Vinitaly, quindi non garantisco della qualità della trasmissione, ma tant'è. Per fortuna ci sono, come sempre, ci saranno gli ascoltatori 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666, numero verde. Filippo, grande squadra, Filippo Aureggi qui in regia, c'è anche Davide Cioccia, Milano Pietro Lacorte, con Giorgio De Luca in redazione, insomma. Ma soprattutto qui vicino a me, e qui la qualità è garantita, una superstar dei tuffi. Beh, perché fai così? No, non una superstar, dai. Aspetta un attimo. Allora, Francesca Della Pè, grazie, ciao. Ciao a tutti. Come no? Cioè, leggo il palmarès che sapevo, me lo sono portato per scrupolo. Sei campionessa europea in carica, hai bissato il titolo conquistato all'edizione precedente, medaglia d'argento ai mondiali. E poi mi dici che non sei una superstar. Come ti definisci? Dimmelo tu. Mi definisco un atleta con ancora tanta voglia di raggiungere tanti altri obiettivi importanti, e quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. Tania Cagnotto, tua compagna nel trampolino da 3 metri, sì. tua socia. Cos'è un compagno nei tuffi sincro? Beh, cosa rappresenta un compagno? Come deve essere un compagno di tuffi sincro? Quale complicità? Ci deve essere una forte complicità, ci devono essere gli obiettivi comuni, e tutto il lavoro deve essere fatto apposta per raggiungerli. Io e Tania abbiamo una complicità speciale, siamo amiche anche fuori dalla piscina, quindi anche gli allenamenti che facciamo sono meno pesanti, proprio perché siamo amiche, quindi parliamo di tutto tranne che di tuffi. Senti, ma è possibile non essere amiche ed essere compagne di squadra in una specialità? Compagne di squadra sì, partner in una coppia sincro bisogna che ci sia una forte complicità. Quindi non è possibile tuffarsi insieme e non essere amiche, come in altri sport, lo spogliatoio del calcio, del basket, non è così necessario essere amici se si è professionisti. Io credo che una specialità come questa invece sia fondamentale. Beh, noi comunque prima di diventare partner in questa specialità eravamo prima amiche, quindi è stata una ciliegina sulla torta quella di poter fare delle gare insieme. Qual è stata la storia di questa coppia? Tu prima a Pechino ti sei tuffata con Noemi Bacchi, che è un'altra grande tuffatrice italiana. Sì. Seste, mi pare. Seste. Poi è cominciata questa coppia con Tania Cagnotto. Com'è andata? Com'è questa storia? È andata che comunque io e Noemi abbiamo fatto un percorso insieme a livello di sincro e siamo riuscite a qualificarci per le Olimpiadi del 2008, e per tutte e due è stata una grande crescita e un grande obiettivo che abbiamo raggiunto insieme. Dopodiché abbiamo tutte e due pensato che le strade si dovevano dividere, perché dovevamo prendere la nostra strada individuale. Lei è riuscita, come adesso sapete tutti, a prendere una bella medaglia a Torino e sono molto contenta per lei, e poi io invece ho cominciato a fare il sincro con Tania, e da lì è nato questo sincro che subito è stato un sincro magico, perché ci siamo tolte delle soddisfazioni a tutti gli appuntamenti importanti. Noi, come sai, sabato parleremo di tutto e di tutti, no? In questo programma, anche di calcio, di Formula 1. Oggi sarebbe meglio non parlare, con la Ferrari che continua a navigare nelle retrovie. Gran Premio della Malesia domani, Alonso che partirà in terza fila, si continua a spendere ottimismo, però gli altri vanno più forte. Le guardi le corse? Sì, guardo qualcosina. Chi tifi? Ferrari? Ferrari. Io no, ma fa niente. 800 24 0024, numero verde se volete intervenire, parleremo ovviamente. Gioca l'Inter proprio con il Chievo, squadra della città in cui ci troviamo, gioca alle 18 questa partita che ha o potrebbe avere mille riflessi. Forse non gioca Eto'o, ma questo si sapeva dalla settimana, turno di riposo per lui, Pazzini Milito appena rientrato, che quindi saranno in coppia in attacco, e poi domani sera gioca il Milan e vedremo questo botta e risposta a distanza. Ti piace il calcio? Sì, dai, lo seguo abbastanza, soprattutto negli appuntamenti importanti dove gioca l'Italia. Quindi club niente? Sono milanista. Sei milanista, attenzione. Aia. No, che aia, perché? No, tu sei milanista. Non posso dirlo per contratto. Ah, mi spiace, ok. Sorry. Gli ascoltatori sono 10 anni che ci provano, ma io non rispondo. Okay, 800 24 00 24 se volete provarci, ma soprattutto se volete parlare con Francesca Dalla Pè. È scudetto? Ma io spero di sì. È tanti anni ormai che non lo prendo e speriamo che lo prenda. Sì, dovrebbe in linea di massima, sì. Sai. Ma vedere l'Inter in questa difficoltà... A me Leonardo è molto simpatico, ti dico la verità. Ha avuto una pessima settimana come allenatore, è un allenatore molto giovane come esperienza. Mi è molto simpatico, ma ha sbagliato tanto in questa settimana. Vedere l'Inter in queste difficoltà ti sorprende? No. Ma io credo che in ogni squadra e in ogni atleta ci siano dei momenti di alti e bassi e evidentemente forse dopo due scudetti consecutivi vinti forse era l'anno in cui dovrebbe, no, non lo so, non vorrei cantare vittoria prima del tempo, però ma ci sta, so. Guarda, due settimane forse fa forse è l'anno del basso. Sì. Forse. Sì. Non lo so, non... facciamo guarda, le corna. Ma no, ma poi guarda, due settimane fa ho chiamato Danilo Gallinari, che è mio amico da Denver, abbiamo parlato un po' di pallacanestro e c'era il derby la settimana dopo, no? Danilo, milanista marcio Danilo. Chi lo vince il derby? Lo vince l'Inter, anche lo scudetto. Aia. Poca scaramanzia. Sì. No, ti volevo dire questa sua tocca è bellissima, letta in settimana, prima su Thiago Silva, giocatore della tua squadra, gli hanno chiesto che cosa non le piace di Milano. Risposta: non sono il tipo che va in centro a fare shopping, è tutto troppo costoso. Se non abbassano i prezzi non compro niente, dice Thiago Silva. Mia moglie invece adora questa città. L'anno scorso avevo l'occasione di andare al Real Madrid, ma lei disse che non aveva alcuna intenzione di muoversi da Milano. Moglie a carta di credito la fa funzionare, lui sì, meno. Sì. Ne guadagna 2,5 l'anno. Sono del tirchio assennato, secondo te? Ma è così, no? Che uno se li tiene stretti, poi se c'è la moglie che spende anche per lui, forse bravi, è giusto. Che... Brava Francesca. Ma poi ho visto che tu invece faceva delle storie per una multa. Allora, senti questa, ti racconto sì, un attimo con la viabilità, ti racconto anche questa su Eto'o. Sì. Allora, Eto'o ha questa casa in centro a Milano, 17 milioni di euro, pare, dicono. A gennaio ha subito un furto in casa. Sì. Allora la moglie ha detto: io lì non ci voglio più entrare, non voglio più metterci piede. Allora è andata a abitare in un albergo con la famiglia, naturalmente. Sì. Costo della stanza 2.500 euro al giorno. Sì. Come la vedi? Un po' spendaccione o no? Meglio Thiago Silva o meglio Eto'o? Meglio Thiago Silva. Meglio Thiago Silva, che deve guadagnare 2,5, poi rinnova, chissà quanti gliene danno. Eto'o invece mi pare sia a quota 12, quindi, ecco. Quindi 2.500 euro al giorno sono noccioline. Sì. Vabbè. Traffico, poi continuiamo a chiacchierare con Francesca Dallapè. Se volete chiamare 800 24 00 24, abbiamo un sacco di ospiti che ci aspettano. Messaggi 349 238 6666, primi due non li leggo perché sono idioti. Andiamo avanti, traffico. Sempre a Tempo di Sport, sempre in Italy, sempre Francesca Dallapè, superstar del nuoto, dei tuffi, lo ribadisco, qui vicino a me a chiacchierare di sport oggi. Senti Francesca, ma Federica Pellegrini, per chi frequenta l'ambiente del nuoto, dei tuffi, dello sport acquatico, sta vivendo un'età straordinaria, un'era straordinaria, è un'icona o qualche volta un fastidio per voi? Beh, io credo che lei sia una grande campionessa, lei ha vinto tutto quello che poteva vincere già in un'età molto precoce e io credo che per dei campioni così ci voglia solo stima e quindi per me lei è un'atleta da stimare, un'atleta con molta grinta e sempre con tanta fame di vincere, perché nonostante tutto quello che ha vinto ha sempre voglia di andare alle gare e riuscire a prendersi quello che si spetta. Sì, anche per te il discorso psicologico è fondamentale. Lei sì, ha avuto, sappiamo bene, questa storia delle crisi di panico, poi superate con l'aiuto dello psicologo, però che ogni tanto tornano a riaffacciarsi. Quando arrivi sulla punta di quel trampolino, i nervi come stanno? Insomma, non c'è un problema reale anche per sì, voi, fate qualcosa. Sicuramente io è dal 2007 che vengo seguita da una psicologa che mi aiuta a tenere calmi i nervi nei momenti più importanti, anche telefonicamente quando sono molto lontana lei mi aiuta nelle fasi più difficili. Sicuramente i tuffi sono uno sport di concentrazione, uno sport dove l'emozione non deve giocare brutti scherzi, quindi è molto importante riuscire a fare anche durante gli allenamenti a trovare il metodo giusto per affrontare le gare nel migliore dei modi. raccontaci qualcos'altro di te. Federica Pellegrini sappiamo un miliardo di cose, no? I tatuaggi, la passione per la moda, le scarpe, queste cose, il fidanzato, Marine, eccetera. Tu quali passioni hai fuori dalle piscine? Se hai tempo fuori dalle piscine. Sì, beh, anche a me piace andare a fare shopping, anch'io ho una passione per le scarpe col tacco alto, mi piace uscire con le amiche, mi piace andare al cinema, viaggiando tanto poi mi piace anche stare a casa davanti a un bel film e godermi anche la tranquillità della casa. Sì. Altra superstar abituale per me al sabato pomeriggio, oggi non è qui, non è voluto venire a Vinitaly perché è a Stemio, Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati a tutti. No, non me ne sento, non ho quella forza per resistere alle tentazioni, cose che ti caratterizza. Fossi venuto a Verona, non tornavo tranquillo a casa. No, non tornavamo tranquilli insieme a casa, mio caro. Senti Andrea, visto che c'è qui Francesca Della Pè, questa straordinaria stagione dell'oro del nuoto, dei tuffi azzurri, tu hai seguito anche le ultime Olimpiadi, hai seguito mille Olimpiadi da giocatore, poi da commentatore, nei tuoi mille travestimenti, insomma. Questa stagione dell'oro degli sport acquatici azzurri, secondo te quali radici ha? Credo, innanzitutto complimentissimi, vi stavo ascoltando, ho trovato perfette le risposte di Francesca, anche con le tue domande piuttosto complicate talvolta. Perché? Grazie. Ma perché complicate? Perché te la prendi sempre con me, Andrea? No, non me la prendo, semplicemente da giornalista fai domande che noi da sportivi talvolta preferiremmo non ricevere. Sì. Chiedere a Francesca di sbilanciarsi nel commentare una sua compagna o comunque collega non è esattamente la cosa più semplice. Allora, allora provaci tu, fagliene una tua, Francesca. No, figurati, stavo dicendo invece, perdonami, che ho trovato molto molto interessante anche lì la domanda sull'amicizia tra compagni di squadra. E mi è venuto in mente però che se in spogliatoio si hanno ruoli diversi e a volte si può davvero giocare con ciò che ti caratterizza e metterlo insieme alla squadra, metterlo a disposizione della squadra, nel caso di un tuffo in sincro è veramente una sintonia, come diceva Francesca, e complicità. E quella parola complicità nel mondo degli sport di squadra ha un significato diverso. Ecco perché ho trovato molto interessante il fatto che forse nello sport, in questo caso uno sport individuale, che è una versione di squadra, sia veramente molto importante capire anche che tipo di rapporti si hanno fuori dalla piscina, fuori dal trampolino. No, anche perché dicevo prima, in uno spogliatoio anche vincente, anche ad altissimo livello, come sono quelli che hai frequentato tu, non è così determinante, discorso che abbiamo fatto già altre volte, non è così determinante essere amici, no? No. Se si è professionisti. Assolutamente, continuo a pensare che l'amicizia nel campo dello sport sia più rispetto, sia più grande disponibilità a sopportarsi anche. Poi l'amicizia è qualcosa di diverso, è qualcosa che ha a che fare con la condivisione, con gli stessi gusti. Però questo, come si diceva nel caso del basket, della pallavolo, del calcio, significa che io posso entrare in spogliatoio e anche se ho un rapporto un po' difficile con un compagno, possiamo essere due colleghi straordinari, giocare benissimo. Invece credo che in altre discipline dove la condivisione è molto più sottile, evidentemente occorre anche essere un po' più complici, quindi un po' più vicini, un po' più amici di quanto non sia sufficiente essere quando si è in spogliatoio e si va fuori per schiacciare il pallone o per fare canestro. Vedo che Francesca annuisce. Sì, anch'io condivido e dico che comunque l'amicizia tra me e Tania è sicuramente la ciliegina sulla torta, perché comunque c'è rispetto, c'è fiducia, c'è stima da tutte e due le parti e la ciliegina sulla torta è l'amicizia, quindi forse quello è la complicità che ci fa stare bene durante le gare. Io intanto do la parola, grande happening, la radio come sempre, quindi interventi a schema libero. Parliamo di sport, se mi parlate di politico, di economia, avete sbagliato indirizzo, ma di sport quello che volete. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buonasera. Intanto volevo fare i complimenti alla sua ospite per i risultati che ottiene. Certo. E porta in alto l'onore di questo bellissimo sport. Poi volevo fare una riflessione, la differenza secondo me fra Leonardo e Mourinho, cioè sì. Secondo me, allora io mi ricordo interviste l'anno scorso di Mourinho in cui gli chiedevano come si svolgesse un po' la sua giornata lavorativa e lui aveva detto che per la partita di finale di Coppa Italia Inter-Roma avesse guardato una partita della Roma tre volte, lavorandoci per 4 ore ogni volta che vedeva la partita. Sì. Ecco, in totale sono 12 ore di lavoro per vedere solo una partita. Sì. Vabbè che nel calcio ci sono gli episodi, lo stato di forma, ma il fatto che come lei è un grande appassionato di basket anche come me, il fatto che Messina sia andato da Mourinho a constatare proprio l'aspetto dei dettagli, diciamo la lavorazione proprio sui dettagli, certo. Cioè io penso che quello sia la differenza fra Mourinho e gli altri allenatori. Poi che lui sia antipatico, questo a me... Ma antipatico dipende dai gusti, Luciano, antipatico dipende dai gusti. A me per esempio non è antipatico, non mi è mai stato antipatico Mourinho. Questo vuol dire che faccio il tifo per lui, semplicemente è un grande professionista e secondo me un grande allenatore, ma soprattutto una persona di estrema intelligenza e anche con tanto coraggio, perché a me piacciono quelli che ci mettono la faccia, la propria faccia, che non vanno a nascondersi da nessuna parte. Questo è quanto, Carlo, ma Carlo, Andrea, dimmi, eccomi. No, fammi dire, non pensiate però che Mourinho è un grande allenatore perché guarda per tre volte la stessa partita. Quello che stavo per dire io. Cioè, Mourinho è un grande allenatore, lo dicono i risultati, è un allenatore speciale, per esempio, che rimane per periodi brevi nelle squadre, vince moltissimo e poi lascia un terreno che non è come quello di Attila, quindi terra bruciata, ma insomma quasi sì. Quasi un po' ci assomiglia. Sì. Dopodiché io ho conosciuto molti allenatori giovanissimi, per esempio, che si nascondevano dietro le tante ore passate davanti al video e davanti ai numeri, senza poi riuscire a utilizzare queste tante informazioni e farle diventare una strategia, una tecnica vincente. Ma sai, quindi, Andrea, molto spesso, non ti dico che è una moda, è quella della, comunque del vivi sezionare le partite, dell'uso ossessivo del videotape, di... Molto spesso gli allenatori, soprattutto quelli molto giovani, credono in questa preparazione. Costan Peterson, come ben sai, li vuole vedere le altre squadre, preferisce guardarli in un filmato di 5 minuti perché lui la vede così. Insomma, dipende dai gusti. Certo, sì. Uno non è un grande allenatore perché si guarda 1000 ore di partite, esatto. Uno non è una pipa perché non le guarda. Tra l'altro, tutte le informazioni di natura tecnica e strategica iniziano ad essere utili quando hai una squadra che è motivata e con l'atteggiamento giusto in campo. Se non c'è questa prima base, puoi sapere quasi tutto gli avversari, ma i tuoi atleti non sono in grado di metterti in pratica. Quindi diciamo che ci sono due fasi. Prima mettiamo in campo una squadra che sia con la testa in campo, motivata e grintosa, e poi a quella squadra diamo informazioni di natura tecnica e strategica. Sicuro. Francesca, sono curioso di sapere questo invece. Per voi esiste una preparazione tattica? Cioè guardate i filmati, guardate le avversarie. Come funziona sta storia nei tuffi? Allora, durante gli allenamenti abbiamo un video dove ci fanno vedere il tuffo che abbiamo appena fatto in differita, quindi noi usciamo dall'acqua e guardiamo gli errori che abbiamo fatto e in più abbiamo l'allenatore che ci corregge mentre guardiamo le figure del tuffo. Poi ovviamente ogni gara che facciamo viene registrata e viene studiata dopo averla fatta, perché sicuramente le sensazioni che hai durante la gara o durante l'allenamento o durante un tuffo non sono tanto oggettive come quelle che noi vediamo filmate o registrate, e quindi a volte le sensazioni sono diverse ed è giusto guardare. Quanto tempo dedicate a questo lavoro? Cioè quanto ci si guarda? Quanto è frequente questo tipo di lavoro? Sicuramente dopo ogni gara dobbiamo guardarci i nostri tuffi e studiarceli. Facciamo che la gara dura un'oretta, noi ce lo guardiamo a rallenti ogni tuffo, sì, perdiamo insomma quell'ora e mezza. Ho capito. Questa non la sapevi neanche tu, Zorro? No, non lo sapevo. Tattica nei tuffi non la sapevi, eh? Non lo sapevo, però mentre parlavate mi è venuta in mente una cosa che ho visto tanto tempo fa su YouTube e vi invito a ricercarvela. Forse Francesca l'ha visto 1000 volte. Allora cercate, il titolo è The Olympic Japanese Diving Team. È un video in cui c'è un numero spropositato di tuffatori giapponesi, saranno 100-150, una musica molto ritmata, salgono le scale della piattaforma da 10 metri e a tempo perfetto si tuffano giù, uno a destra e uno a sinistra, ed è un video bellissimo che rappresenta poi il mio caro Giappone attraverso i tuffi, dove devo dire mi pare si difendono piuttosto bene. L'hai visto questo? No, non l'ho vista, andrò a vederlo, sì. Allora adesso richiamiamo Pagliarini che è qua fuori, perché io con la tecnologia sono un disastro e me lo faccio cercare su YouTube. Guardate, lo guardiamo insieme. Allora, Olympic Japanese Diving Team. Adesso ci provo, Andrea. Grazie, ciao Andrea. Beh, sabato ti aspetto però, Va bene, diamoci un appuntamento pubblico. Salvo. Io ci provo. Fai buon uso del luogo nel quale sei. Qui dallo stand del Trentino ci provo, sarà dura. Grazie Andrea, un abbraccio. Ciao, in bocca al lupo anche a Francesca. Grazie, ciao. Crepi, ciao. Prima di fermarci un attimo però, Franco da Genova, perché non voglio tenerlo in linea un'ora. Franco, buongiorno. Franco? Buongiorno. C'è? Dottor, non c'è? La ringrazio. Pronto? Sì, dica. Allora, la ringrazio per avermi chiamato. No, mi piacerebbe sentire parlare ogni tanto. Sì. Io ho 77 anni, ho conosciuto fior di campioni a Genova, come Duilio Loi, Bruno Arcari, eccetera, vabbè. Ma mi piacerebbe sentire parlare un po' di Camarelli, che ha vinto due mondiali, ha vinto le Olimpiadi e proprio ieri ha vinto l'ultimo torneo dei super massimi di pugilato. A volte parlato dell'NBA, senta, di cose che va, guardi, bene, sono la presenza di Francesca è la testimonianza che questa porta, che la porta di questo programma è aperta a tuttissime le discipline, cioè io ogni sabato farei venire un grande atleta con me, purtroppo non sempre è possibile. Camarelle, proviamo, glielo prometto, anzi Giorgio De Luca in redazione a Milano sta già prendendo appunti, proveremo a convocarlo. Grazie Franco. 800 24 00 24, numero verde. Mi tengo Francesca Dall'Ape per la seconda parte del programma e vi aspetto a tra poco. Eccoci tornati. Nel frattempo, mentre non eravate collegati, io sono andato a fare rifornimento. Adesso faccio un brindisi con Francesca Dall'Ape, una superstar dei tuffi. Alla sì, tua. Grazie. Alla tua, cara Francesca. Ma com'è, spumante trentino, com'è il rapporto con cibo, vino, eccetera, eccetera? Vabbè, qua sacrifici, sì. Sacrifici o meno? Beh, qui si mangia e si beve qui benissimo. Obbligatorio. Sì, sì. No, ogni sacrifici tanto quanti? Un po' di sacrifici si devono fare. Oggi è un'occasione un po' speciale, quindi mi concedo un po' di questo Trento Doc. Però le diete sono alla base un pochino del mio allenamento. La rinuncia più difficile? Ah, i dolci. Sì, I dolci, il cioccolato, la pizza e il gelato. Allora, io ho un ascoltatore di Rimini che vuole parlare con te. Sì. 800 24 00 24, numero verde. Ho una domanda interessante via SMS su un lungo refrain che abbiamo innestato io e Andrea Zorzi, scatenando un polverone sui luoghi dello sport, eccetera, eccetera. Dunque, prima Mirko da Rimini, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì. Per me non sono un grande... grande sportivo. La mia domanda era questa: io vengo dal mare e ho imparato a nuotare a 4 anni tuffandomi dagli scogli e il papà mi veniva a prendere, ancora io non nuotavo, però lui mi raccoglieva. E sono cresciuto facendo i tuffi. Fare i tuffi era bello, poi crescendo da adolescenti si tuffava, si faceva vedere dagli amici, dalle ragazze, è sempre stata una cosa che mi ha accompagnato tutta la vita, anche adesso che sono sui 40, comunque quando vado trovo uno scoglio interessante, un posto bello per tuffarsi, si tuffa, si fa, insomma, comunque è bello buttarsi nel vuoto, questo spazio di tempo che va da quando sei ancora in aria nell'acqua. Sì. Volevo chiedere come è nata la passione, se è nata come lo è per me, che non ho mai fatto in maniera sportiva, oppure se è nata in piscina. Sì, vabbè, la mia passione è nata a 6 anni, facevo un corso di nuoto con la mia attuale allenatrice, solo che invece che imparare a nuotare mi buttavo dal bordo e facevo già le capriole. Quindi lei decise di scrivere un messaggio da portare ai miei genitori con scritto, insomma, se volevo provare a fare i tuffi invece che il nuoto. Da quel giorno ho cominciato a tuffare, da lì è nata questa passione che dura ancora tuttora e non ho mai smesso. Era uno sport che mi divertiva molto, era meno noioso sicuramente del nuoto, dove devi fare avanti e indietro. Io andavo su e giù da questo trampolino, era molto divertente. Insomma, vedo che ci sono anche un sacco di persone grandi che si divertono a saltare sul trampolino, anche sul tappeto elastico, quindi è uno sport molto divertente. Senti, ma al di là del gesto di tuffarsi in piscina, quale tipo di preparazione fai? Beh, sicuramente, cioè, come ti alleni? Il periodo dove mi alleno di più è settembre, ottobre, novembre, dicembre, che faccio una preparazione atletica. sera è abbinata comunque alla piscina e alla palestra, poi smetto di fare la preparazione atletica e continuo con la preparazione in palestra e ovviamente la piscina. Sì, quindi quella è la parte un po' più noiosa. Sì, no? La parte un po' più dura, perché poi iniziano le gare. Non so invece se ti piace parte... correre, io vado ma lo detesto, è una sfida con me no, stessa. No, correre sì, anche per me è una sfida con me stessa. Quando giocavo mi preparazione atletica mi nascondevo dietro le piante. Non dirlo a nessuno. No. 800240024 è il numero verde per parlare con me, con noi, ma soprattutto con Francesca Dallapè. C'è stata una volta invece in cui hai detto quel trampolino non lo voglio più vedere? Sì, ci sono state delle volte che ci sono delle crisi, ma credo tutti gli sportivi hanno passato dei momenti di crisi dove magari anche solo con una settimana di vacanza, con una settimana fuori dall'ambiente proprio sportivo, faceva bene, ha fatto bene e mi faceva tornare con più voglia e con altri obiettivi importanti. Senti, io invece l'SMS che ho ricevuto 349-238-6666 è il contatto. Invio una domanda per te. Io e Andrea Zorzi abbiamo innescato un lungo tormentone sui luoghi dello sport, no? Sì. Su quelli che ti provocano emozione, che di quelli che davanti ai quali, insomma, per chi ama lo sport, insomma, vai lì e sei come di fronte alla Tour Eiffel o alla Gioconda. Sì. Tu quali luoghi dello sport nel cuore? Cioè, quali sono quelli che ti danno emozione vera? Ma luoghi. Luoghi, stadi, piscine, palestre. Quali sono i tuoi luoghi dello sport? Beh, vabbè, ovviamente quando due settimane fa sono tornata nella piscina di Pechino dove ho fatto le mie prime Olimpiadi, quella è stata un'emozione grandissima. C'erano ancora le insegne dei cerchi olimpici di Pechino 2008. Hai capito perfettamente quello che volevo chiederti. Sì. Queste cose voglio sapere. Sì. Quindi cosa hai visto? Cosa c'era? Ah, lì subito la prima cosa che ho detto a Tania è stata: che emozione tornare in questa piscina, mi sembra di rivivere le stesse sensazioni che ho avuto la prima volta che sono entrata qua, questa piscina immensa, questa piscina dove ha ospitato i migliori atleti del mondo, e mi è sembrato di rivivere quelle emozioni così della prima volta. È stato emozionante, bello. Bravissimo. Ti presento un mio amico sempre al telefono, Massimo Callegari da Mediaset Premium. Parliamo un po' di calcio adesso, sì. Cara Francesca. Eurocalcio. Ciao Massimo, come stai? Ciao, molto bene. Voi? Buon pomeriggio. Noi benissimo, io benissimo. Dove sei stato in settimana? Ricordamelo un po'. In settimana ero in Spagna e ho visto Via Real di Giuseppe Rossi e poi mi sono dilettato con i giornali spagnoli che sono già lì tutti carichi per i 4 Real Barça in 18 giorni. Sono carico io, figurati loro. Confronto totale mondiale globale. Chi esce vivo da questo confronto? Barcellona-Real Madrid, Real Madrid-Barcellona. Con in mezzo la storia più divertente, se vogliamo guardarla da fuori, cioè il Real Madrid del basket che va a giocarsi la finale di Eurolega, cioè di Coppa dei Campioni, in casa del Barcellona in contumacia, perché il Barcellona non c'è andato. Questa è meravigliosa. Io non credo che potranno vincere, però sarebbe di un divertimento assoluto, secondo me. Sì, no, peraltro io ero a Valencia perché ho soggiornato lì, che è vicinissima a Villarreal, e erano molto carichi lì per la partita di Eurolega con il Real Madrid. Poi alla fine ci sono rimasti corti un po' anche loro, però insomma questa cosa nell'anno in cui il Barcellona è riuscito a rimanere al massimo, nonostante abbia già ottenuto dei risultati incredibili negli ultimi due anni, in cui il Real Madrid si è rinnovato nel calcio, è arrivato Mourinho, sono arrivati tanti giocatori giovani, nuovi. Il fatto che ci siano queste partite, perché tutti danno per scontato naturalmente che i quarti di ritorno siano una formalità per entrambe, è eccezionale. Devo dire che mi colpisce sempre, pur avendo molti amici a Barcellona e essendo stato molto spesso anche in Catalogna, il fatto che l'orgoglio catalano sia irrefrenabile, loro compiono questi errori madornali di provocare l'orgoglio altrui con queste pubblicità, questi video, no? Le manite, queste cose così. Questa cosa mi lascia sempre sorpreso, perché le leggi dello sport... Quella lì è stata pazzesca, quella del cartellone con gli autori dei 5 gol della manita, sì. Veramente il massimo della provocazione, puoi farla a Mourinho. Io mi aspetto un minimo di replica, perché la sai questa, Francesca? No. Sai, Barcellona, Real Madrid all'andata 5-0, 5 sì. Fischi per il Barça, no? Sì. Hanno fatto questa pubblicità che c'è anche sugli autobus con gli autori dei 5 gol che mostrano la mano con il numero 5, lì in fila per, che apre questa serie di Barcellona-Real Madrid, semifinale di Champions League, finale di Coppa del Re. Provocazione assoluta, sì, se lo fa una tua avversaria, beh, mi arrabbi un pochino, te la mangi, no? Sì. Un pochino. E io sono in attesa della reazione del comandante Mourinho, che secondo me non ci sarà solo sul campo. No, ti sbagli, secondo me c'è, come vedrai. Questa non conta, quella del campionato non conta, ormai è andato. Secondo me oggi è un trick box, è una scatola dei trucchi dove Mourinho metterà quello che vorrà. Massimo, invece, un'altra cosa sorprendente, non so fino a che punto c'entri Mourinho, magari sì, è che l'Europa League rischia di essere veramente il cortile delle portoghesi. Due sono già là, Porto e Benfica, sono già, visti i risultati dell'andata, sono già lì. Sì. Ma anche il Braga, che ha eliminato il Liverpool con questo 1-1 a Kiev, Shevchenko che è stato espulso, non giocherà al ritorno, mille segnali. Rischiamo di trovare tre portoghesi sulle quattro semifinaliste di Europa League. Sì, sì, esatto, quell'altro sarà il Villarreal che ha ipotecato il passaggio. L'altro è il Villarreal, naturalmente. Sì, sì, non credo sia un caso, non è mai un caso quando succedono queste situazioni a un livello così alto, e sinceramente, conoscendo e seguendo da molti anni il calcio sudamericano, non sono sorpreso, perché la maggior parte dei giocatori sudamericani che non sono ancora pronti per il livello super top, quindi Liga, Premier e Bundesliga, in parte l'Italia fino a qualche anno fa, sono tutti acquistati dalle squadre, per la maggior parte dalle squadre portoghesi, Porto e Benfica, che lavorano benissimo, e adesso poi ci sono giocatori tipo Falcao, il centravanti del Porto, che sono pronti anche per i massimi campionati. E poi a livello tattico hanno degli ottimi allenatori, e via Sport sembra veramente la coppia di Mourinho. Se l'abbiamo sentito parlare nell'intervista dopo la partita in italiano giovedì, chiudendo gli occhi sembrava di sentire Mourinho. Sì, è suggestione alla quale si dice l'Inter non sia insensibile, ma queste sono altre storie future, forse. Massimo, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, a presto, buona serata. Grazie a Massimo Callegari, ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo con Luca dalla provincia di Pordenone, che ha una domanda sempre per Francesca Dallapè. A tra poco. Torniamo con Francesca Dallapè e Luca dalla provincia di Pordenone, che è un ascoltatore che vuole chiederle qualcosa. 800 24 0024, telefonate, abbiamo ancora una decina di minuti. Quanto abbiamo, Filippo? 8 minuti? 8 minuti, dunque, questa comunicazione di servizio, fate i vostri conti. Luca, buongiorno. Ciao, sono Luca, telefono dalla provincia di Pordenone. Da sportivo, sì. Sportivo, complimenti alla signora perché è una campionessa di tutto stile. Grazie mille. Volevo chiederti una cosa, il tuo futuro lo stai costruendo adesso oppure aspetti? Non è scontato che tu potrai diventare una scopritrice di talenti o un'allenatrice oppure cos'altro? Il futuro cosa riserva? Cioè, vuoi sapere cosa vuol fare Francesca Dallapè da grande? Questo è questo il senso. La mia esperienza povera è questa: io ho cominciato a giocare a pallacanestro a 7 anni, fisicamente purtroppo sono il più piccolo in casa, 1,83 m, e ho dovuto dare necessità di più grande. Come sono gli altri? No, chiedeva come sono gli altri. Tu sei più piccolo, 1,83 m, gli altri? Mio padre più grande, mio fratello più pacifico, Pacioccone era il pivot nella squadra, ma una grande bufala, per dire. Io continuo a giocare a 55 anni e non riescono a farmi stare a casa, tanto sono ancora dinamico. Però mi sono E tu fai benissimo. No, volevi sapere cosa ci può essere nel futuro di Francesca, che però credo abbia ancora tanti tanti tuffi da fare. Da grande cosa vorresti fare? Intanto l'obiettivo principale è quello di arrivare alle Olimpiadi del 2012 e togliermi una bella soddisfazione. Dopodiché la cosa che mi piacerebbe fare di più è quella di crearmi una famiglia e poi piano piano magari anche fare l'allenatrice. Adesso ancora non lo so. Allenatrice comunque, ti piacerebbe rimanere in... Mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport. Se riuscissi a fare qualcos'altro oltre ai tuffi, sarei molto, molto contenta, però mi piacerebbe riuscire a insegnare quello che ho fatto io ad altri bambini per farli crescere. Bravissimo. Tu personaggi sportivi che ti piacciono? Mm, Vabbè, mi piace molto Valentino Rossi, che credo sia un campione, mi fa anche molto ridere nelle sue interviste, quindi è anche ironico. Ogni tanto perde, però è ironico anche nelle sue interviste, quindi va bene anche quando perde. E poi mi piacciono gli atleti che soffrono, che fanno fatica per raggiungere il risultato che vogliono raggiungere. Tipo? Ma che soffrono, cosa intendi? La sofferenza del ciclismo, ad esempio? È questo il senso? Sì, magari mi piacciono di più non i veri talenti, ma quelli che devono... Ho capito, quelli che devono... I cagnacci, alla Gattuso, insomma. Esatto, alla Gattuso. Gattuso infatti mi piace un sacco. Gattuso ti piace un sacco. Quindi tra moto mondiale e Formula 1, Moto mondiale, sì. In linea di massima. Sì. E tra Alonso e Valentino Rossi, anche come uomo? No, Valentino Rossi. Valentino Rossi. Sì. Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo? Vabbè, stupido, forse per la bellezza Cristiano Ronaldo. No? Beh, io lo so, Cristiano Ronaldo non mi è simpaticissimo. No, ma infatti ho detto per la bellezza. Sì, sì. Senti, invece questa storia, un'altra storia della settimana che mi è piaciuta molto, è stata quella di, sai, Prandelli, l'allenatore della nostra nazionale, che ha detto, io in questa finale di campionato tifo Napoli, o comunque mi piace molto il progetto del Napoli, e apriti cielo, cioè si sono belviti tutti, Galliani, una mossa che ho trovato di un cattivo gusto cosmico. Ha subito chiamato il presidente federale Abete. Ma come? Come sarà il tecnico che fa il tifo per il Napoli? Questo non si può fare poi chissà perché. Ma comunque Prandelli aveva fatto delle dichiarazioni di estremo buon senso, ma anche di molto simpatiche, secondo me, se vogliamo. Ed è stato bacchettato in questa maniera. C'è molta ipocrisia in giro. Molte code di paglia in giro. Ma io diciamo che forse bisogna considerare un allenatore anche una persona, quindi una persona che ha fatto dei ragionamenti, e da persona dice ok, forse in questo caso mi piace tifare per una squadra che ha dei progetti, ha fatto un buon anno quest'anno, e quindi non ci vedo niente di male per tifare un'altra squadra. Assolutamente. Tra l'altro oggi Mazzarri ha detto una cosa interessante in conferenza stampa, ve la faccio sentire. Da Milano. Dove c'è tanta competizione, essere tanto simpatici vuol dire che non fai paura agli altri, no? Quando cominci a essere antipatico è perché ti temono. E questo, secondo me, che bisogna. Chi vuole stare in questo mondo deve avere questo pizzicore addosso, no? Gli deve piacere essere un po' antipatico, perché se è scomodo comincia a dar fastidio. Io preferisco questo. Poi, da un punto di vista del gioco, per la gente soprattutto, perché poi non scordiamoci, il calcio è anche uno spettacolo, una squadra che viene elogiata, che viene definita simpatica dalla gente, ancora altro motivo d'orgoglio, sono due componenti che vanno di pari passo, però vista dalla gente, da chi veramente viene al campo per divertirsi e vuole vedere uno spettacolo, invece dalla parte della critica, dei colleghi e di altri, è meglio essere un po' antipatici, vuol dire che ci siamo. È grande Mazzarri. Cara Francesca Dalla Pè, superstar dei tuffi, ti presento una superstar del video, sì. Caterina Balivo, la conosci? Sì, l'ho vista qualche volta in TV su Pomeriggio sul 2. Te la presento, ciao Caterina. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Senti, questa storia di Prandelli che ha detto tifo Napoli e sono incazzati tutti, come l'hai vista? Ah, guarda, mi sta ancora più simpatico Prandelli anche dopo questa dichiarazione. Si è detto tramite, è un uomo, ha fatto simpatia a Napoli. Napoli è una squadra giovane rispetto alle grandi, è una squadra che si sta facendo in questi anni, è una squadra che ha vissuto la Serie C fino a pochi anni fa, con un nuovo presidente, con Mazzarri, tutti questi ragazzi giovani. Ma anzi, ma ben venga che Prandelli abbia scelto una squadra come Napoli. Ma io non lo so, giusto perché in Italia devono criticare tutti, no? Esatto, criticano un sacco tutti quanti. Ma io tifo Napoli, tifo Napoli, sarei contento se lo vincesse il Napoli lo scudetto, poi criticano anche. Perché? Ma perché di sì? Posso fare come risposta? Sì, non sei milanista. No, non mi piace come risposta. Poi quando vai, sei un reality nomination, no? Devi dare delle spiegazioni. Fa la brava. No, ma perché sarebbe qualcosa di nuovo, Caterina? Oh, bravo, sarebbe, vedi, cioè, bravo, sarebbe qualcosa di inedito. Quante volte abbiamo detto, ma tanto... Adesso lo scudetto, se non sei l'Inter, il Milan, la Juventus, che vabbè, ha qualche problemino, o la Roma, lo scudetto non lo vinci più perché è un altro calcio, perché ci sono altri soldi, perché è tutto diverso, cioè qualcosa del genere non può più succedere. Io resto convinto che sia molto difficile, però lasciatemi questa simpatia. viva sì, Dio. Sì, no, no, no, ma io, cioè, figurati, ci speriamo tutti, ecco, noi grandi tifosi ci speriamo tutti. Senti, ma io ho letto tue dichiarazioni in settimana, confermi? Ecco, sì, sì, confermo. Una promessa data e bisogna rispettarla. Bisogna rispettarla ed ecco un motivo in più per tifare Napoli. Sì, no, ma io domani sono in trasferta a Bologna, speriamo che possa... Non abbiamo sei in trasferta calani, a Bologna? Ma... Sì, sono in trasferta a Bologna con la mia... Pensa a te. Senti, ma ti chiedo ancora questo, ma meglio il poccio, meglio niente, perché Caterina Balivo è caduto il telefono, ma tanto torniamo a risentirci, la sai, no? Ha promesso Strettisi in caso di scudetto del Napoli. Poi allora mi chiedono... tutti gli uomini non vedono l'ora che vinca il Napoli. Sì, tutti quelli biechi come me. Senti, adesso dobbiamo però salutarci, dobbiamo... Okay. Ma non passi da Milano qualche volta? Non, in questo periodo non è organizzato, non c'è problema, però non c'è problema. Se torni, se vieni a trovarci a Radio 24, sì, sarai ovviamente graditissimo. Grazie, grazie a te, mille. Grazie Francesca Dall'Apè. Qui da Vinitaly con Filippo Aureggi in redazione, in regia, vediamo se mi ricordo tutti. In regia a Milano c'è Pietro Lacorte con Giorgio De Luca in redazione. Qui c'è Elena Ligios, c'è Davide Ciocia. Beh, ci siamo tutti quanti. Arrivederci e grazie. Ci sentiamo domani dalle 4 e mezza alle 7 per parlare di calcio, dalle 8 e mezza alle 9 per il basket. E noi andiamo a farci un brindisi. Buona serata.